benvenuti su Rigonia. And what we see these young men doing at 8 o'clock every morning on the rooftops in the parks called shadow boxing, which they're always... Well, actually, you see, that is part of Chinese boxing. It is. There are so many schools, different Everybody schools. Here seems to be, you know, going like this all the time. Well, that's good. I mean, I'm very glad. I'm very glad to see that because at least somebody is caring for their own body, right? Yeah. I mean, that's a good sign. Well... It's a kind of a slow form of exercise, which is called Tai Chi Chuan. Uh-huh. I'm speaking Mandarin just now. Yeah. Cantonese, Tai Chi Chuan, okay? I see. And it's more of an exercise for the elderly, not so much for the Give young. Give me a demonstration. Show me. Can you do a little bit of it? Just I mean, hand-wise, it's very slow. Oh, is it? And you push it out, but all the time you are keeping the continuity going, bending, stretching, everything, you know, suppose, you know, I mean, you just keep it moving. It's like a belly dancer there. Yeah, it is. I mean, to them, you see, the idea is running water never grows stale. So you got to just keep on flowing. Of all your students, famous, James Garner, Steve McQueen, Lee Marvin, James Coburn, Roman Polanski. Rigonia. Cari amici, buongiorno. 10.05, 3 luglio 2024, Rigonia torna su Radio Antidoto. dopo qualche giorno di assenza ci siamo presi il nostro tempo. Perché? Perché sì? Perché no? Perché no? Perché sì. La puntata di oggi è una puntata che ho in testa da diverso tempo e come spesso capita con queste puntate, in realtà poi di fatto mi trovo in grossa difficoltà a portarle avanti, nel senso che vorrei fosse una puntata che non finisce qui, nel senso vorrei fosse una puntata che continua, che va avanti, che affronta l'argomento ancora altre volte, perché è un argomento complicato da affrontare seriamente. È un argomento che mette anche un certo imbarazzo da un certo punto di vista, o almeno a me, nel senso mi mette sinceramente in imbarazzo. Vorrei riuscire a poterne parlare subito, diretto, a tirar fuori le parole giuste. Invece è una di quelle puntate in cui devo un po' rimuginare ad alta voce su quello che la mia testa mi ha detto che devo dire, e allo stesso tempo è tutto mescolato assieme e non sono sicuro che quello che andrò a dire sia effettivamente la cosa che va detta, ma soprattutto non so neanche veramente bene che cosa andrò a dire, cioè è tutto in progress. La musica che ascolterete è in forte contrasto con l'argomento, o almeno, come dire, da un punto di vista superficiale, magari uno ci può riflettere e dire no, invece sai che c'è, invece c'entra proprio tantissimo. Ma siccome io ho attorno a mezzogiorno e mezzo salirò in macchina e andrò a Padova ad ascoltare i Bad Religion, allora ho deciso che in questa puntata facciamo un po' di ripassone. Inizialmente volevo mettere gli Idols, l'ultimo disco degli Idols, a sentire qualche traccia, perché li ho ascoltati sabato sera qui vicino Torino e mi è piaciuto moltissimo. È stato esattamente il concerto che avevo voglia di ascoltare. Ma ne approfitto invece per fare un po' di ripassone dei vecchi classici, anche delle cose nuove che non ho mai ascoltato, dei Bad Religion, e poi in macchina continuerò, insomma, per un giorno intero ascolterò soltanto una band, credo. Quindi Bad Religion, musica non perfettamente forse allineata all'argomento. L'argomento di questa puntata vorrebbe essere l'amore. Che cos'è l'amore? Ne sentiamo parlare di continuo, onnipresente in canzoni, libri e film. Ha ispirato poeti e artisti di ogni genere. È un sentimento così tanto potente e universale nella nostra specie, eppure a volte così misterioso e inspiegabile. Cerchiamo di capirci qualcosa dal punto di vista scientifico. L'amore è comunemente associato al cuore, ma è nel cervello che avviene la magia. Esso è composto da tre fasi: desiderio, emozione e attaccamento, ognuna caratterizzata dal proprio mix di ormoni e agenti chimici che entrano in gioco. La fase 1, il desiderio, è guidata da due ormoni, testosterone ed estrogeno. Essi sono responsabili della nostra voglia di trovare un compagno, dell'infatuazione quando ne troviamo uno potenziale e del desiderio sessuale. Pupille dilatate, sudorazione, bocca secca, battito cardiaco e respiro accelerato sono tutti sintomi dell'amore che muove i suoi primi passi e sono causati dal rilascio nel corpo di adrenalina. Quando poi l'amore comincia a correre pienamente il suo corso, qualcuno direbbe che è come una droga, e non avrebbe tutti i torti. Il cervello delle persone innamorate, infatti, è sorprendentemente simile a quello di persone sotto l'effetto di cocaina. La soglia a cui rispondono i centri del piacere si abbassa, e questo significa che proveremo sensazioni di piacere e di benessere molto più facilmente. Tutto diventa più bello, e allo stesso tempo si alza la soglia del dolore e del fastidio, così che più difficilmente potremmo avvertire queste sensazioni negative. Tutto questo è generato da un'impennata nei livelli di dopamina, un neurotrasmettitore alla base del sistema di desiderio e ricompensa. Esso è responsabile per la motivazione, la voglia e il desiderio di stare ancora ed ancora con la persona amata e per il piacere che ne deriva. Insieme alla noradrenalina porta un incremento di energia, perdita di appetito e un aumento di concentrazione che permette di ricordare i più piccoli particolari dei momenti passati con il proprio partner. Non sorprenderti se con tutta questa energia non riesci a prendere sonno la notte. Negli innamorati, inoltre, si riscontra una cosa in comune con le persone affette da disordine ossessivo compulsivo: un abbassamento dei livelli di serotonina. Questo spiega l'ossessione nei confronti del proprio partner e il suo incessante riapparire nei propri pensieri. Con il tempo in un rapporto, desiderio ed attrazione possono diminuire, ma aumentano legame, connessione ed attaccamento verso il proprio partner. Merito dell'ossitocina, nota anche come l'ormone dell'amore o l'ormone delle coccole. I suoi livelli aumentano significativamente dopo l'orgasmo e questo significa che il sesso aiuta a cementare il rapporto in una coppia. Essa promuove la formazione di relazioni lunghe e stabili. Ma perché il nostro cervello lavora in questo modo? Il 95% delle specie animali non formano coppie fisse. I biologi evoluzionistici teorizzano che questo sia un adattamento dovuto al bisogno dei nostri bambini delle cure parentali così tanto a lungo rispetto alle altre specie. Così l'amore cerca di fare in modo che i genitori rimangano insieme per quando ce ne sarà bisogno. Se vuoi sostenere l'amore per la conoscenza, supportami su patreon.com/abeautifulmind. Iscriviti al canale per non perderti i prossimi video e metti like alla pagina Facebook. Obituary. Oh yeah, cockroach nets, rattling traps. How many devils can you fit up on a matchet? Curiosity killed the Kerouac cat. Sometimes truth is stranger than fiction. In Miami, round the corner, there's a wide old family, shoulders and a spirit giving it for crack. You'll never want it back. There's a little kid and his family eating breakfast like Thanksgiving at a back of wild desperados run for a baby. Obituary. Oh yeah, create a fire cat, warm plugs back. How many angels can you fit up on a match? I wanna know why Hemingway cracked. Sometimes truth is stranger than fiction. Life is the crummiest book I ever read. There isn't a hook, just a lot of cheap shots, pictures to shot, and characters in every job would never dream. Amore è una parola che nella nostra cultura ha quasi perso il suo significato. C'è una storia molto interessante riguardo il rabbino Kotz. Egli incontrò un ragazzo che si stava godendo il suo piatto di pesce e disse al ragazzo: perché stai mangiando quel pesce? E il ragazzo rispose: perché amo il pesce. E lui rispose: oh, ami il pesce, ed è per questo che l'hai tirato fuori dall'acqua, l'hai ucciso e l'hai bollito. Non dirmi che ami quel pesce, tu ami te stesso. E visto che ti piace il suo sapore, allora l'hai tirato fuori dall'acqua, l'hai ucciso e l'hai bollito. Quindi, molto di quello che noi crediamo amore è amore per il pesce. È come quando una giovane coppia si innamora. Cosa significa? Se un ragazzo è innamorato o una ragazza innamorata, significa che il ragazzo vede nella ragazza qualcosa che può soddisfare tutti i suoi bisogni fisici ed emotivi, e la ragazza vede nel ragazzo qualcosa che lei pensa sia quello è amore, ma amore dei propri bisogni. Non è amore per l'altra persona. L'altro diventa uno strumento per la propria personale gratificazione. Troppo spesso, quindi, quello che chiamiamo amore in realtà è amore per il pesce. Un amore vero non si basa su ciò che sto per ricevere, ma su quello che sono in grado di dare. La gente commette un grave errore, pensando che si doni a chi si ama. La risposta, la vera risposta è: si amano coloro a cui si dona. Il punto è: se io do qualcosa a te, io sto dando me stesso a te. E dato che amare se stessi è un dato di fatto, ognuno ama se stesso, e ora che quella parte di me fa parte di te, vi è una parte di me in te che amo. Quindi l'amore vero è quello che dona, non quello che riceve. Torniamo in onda, Rigonia, stagione 2, episodio 32, 10-18, la puntata, che vuole parlare dell'amore, ma che vorrebbe anche un'altra puntata, e un'altra puntata, e un'altra puntata. Ho mandato qualche audio, e sono stato zitto ad ascoltare, e... per raccogliere le idee. Una cosa che mi è venuta in mente ascoltando quest'ultimo contributo, peraltro missato davvero male, complimenti a chi l'ha pubblicato, nasce dalla mia esperienza diretta, e forse è il punto di partenza migliore, e forse è anche, come dire, la ragione per cui effettivamente sono in onda a parlare di questo argomento. Io non credo di essermi mai veramente interrogato sull'amore fino ai 30 anni, e sono abbastanza sicuro che le persone con cui ho avuto relazioni prima dei 30 anni, e di fatto prima di Lucia, io non le amassi. Sicuramente c'è stato del desiderio di conoscenza, desiderio di incontro. Quello sì, ma appunto la riflessione che è stata fatta da quest'ultima persona, di cui adesso non ricordo il nome, ma non importa, perché in fondo interessano soltanto i contenuti delle parole, non per forza chi le dice o come, mi ha fatto pensare che ci sono tante forme di amore, ma sicuramente quello che io, almeno nella mia esperienza, ho riconosciuto come amore è vero, amore allo stato puro, è sicuramente quello che ho provato per mia moglie, che provo per mia moglie, ma che sicuramente all'inizio è stato molto forte, all'inizio della nostra relazione, e che ha a che fare proprio con questo aspetto del dono. Però vorrei dire una cosa diversa, cioè che l'amore è una scelta. perché se tu sei una persona che ha fatto i compiti, se tu sei una persona che a un certo punto ha deciso di guardarsi allo specchio e di capire principalmente, cioè di trovare risposte a determinate domande che in qualche modo continuavano a reiterare una situazione di disagio o di disorientamento, è molto facile che arrivi a un certo punto nella vita in cui effettivamente ti rendi conto che la presenza dell'altro è importante ma non necessaria. Vuol dire che sostanzialmente ci sono tantissime esperienze che si possono fare in compagnia di se stessi, anzi nel negarsi la possibilità di fare determinate compagnie, determinate esperienze in compagnia di se stessi, si perde, come dire, un pezzo di esperienza della vita molto importante. Per esempio, a questo concerto di Bad Religion ci vado da solo, e anche al concerto di sabato degli Idols sono andato da solo, però non è che io faccio le cose solo da solo. Sono andato a vedere i CCCP con mia moglie, sono andato a vedere la band di Keanu Reeves, ebbene sì, a Torino, con mia moglie, il mio testimone di nozze. Il punto è, quando tu capisci che effettivamente la tua vita come individuo, come te stesso, resta in piedi ed è valida ed è bella ed è ricca ed è profonda anche senza la presenza a tutti i costi di un compagno, di una compagna, di un oggetto amoroso, allora anche questo oggetto amoroso, anche quando effettivamente si incontra poi l'oggetto dell'amore, assume un altro ruolo, assume un altro significato, assume un altro sapore. Perché cosa succede? Tu puoi effettivamente decidere che non hai bisogno di una relazione per star bene nel mondo, ma quando incontri la relazione, per questo parlavo di scelta, allora l'azione dell'amore è un'azione fatta di intenzioni differenti. Del tipo, io posso, voglio stare con te, io voglio darti e condividere quello che ho raccolto, quello che so. E per me ha fatto tutta la differenza del mondo. Quindi sicuramente, come dire, c'è il meccanismo ormonale raccontato abbastanza bene da questo influencer che ho beccato alla buona subito su YouTube. Sicuramente quelli sono i passaggi che il nostro corpo fa per creare quella dimensione che ha a che fare con la con il corretto funzionamento della nostra esistenza come specie animale, sebbene senziente. Però è anche vero che siamo animali con dei contenuti che in qualche maniera chiedono sempre l'aggiunta di un pezzo in più. Non basta semplicemente che mi pompa l'ormone del desiderio o che divento ossessivo per creare una coppia, per creare amore, perché le coppie si creano e durano anche tanto e poi si sbriciolano. L'amore è qualcosa che, secondo me, è una puntata difficile perché l'amore è una parola che viene usata tantissimo, però alla fine non c'è un contenuto, non c'è un contenuto reale dietro questa parola, o almeno si tende sempre a trovarne un pezzo, a trovarne una scintilla, come dire, un riflesso, e per il resto sfugge anche. E sembra quasi che sia davvero difficile immaginare che l'amore sia qualcosa che non ha a che fare con se stessi. Cioè, sembra veramente impegnativo in un qualsiasi contesto pensare che ci hanno fregato sull'amore. Cioè, c'è stato detto qualcosa sull'amore che in qualche maniera lo nascondeva davvero i nostri occhi. L'amore non è mai stato una faccenda personale, nel senso, ovvero l'amore come faccenda personale c'entra con l'amare se stessi. Cioè, tu devi provare amore per te stesso. Cosa vuol dire provare amore per te stesso? Svegliarti e renderti conto che ti è stato affidato un corpo, ti è stata affidata una vita, ti è stata affidata un'esperienza, e tu con questo tempo, con questa vita, con questa esperienza ci devi fare il meglio che riesci. È una brutta metafora, molto brutta, però la uso lo stesso. È come se ti avessero regalato un'automobile bella, un'automobile che costa tanti soldi. Cioè, è come se ti avessero messo nelle condizioni di poter usufruire di un'esperienza unica. È come se ti avessero pagato 10 anni di università. È come se ti avessero messo, come dire, come centravanti del Barcellona. Cioè, c'è tutta la squadra che preparerà la palla perché tu la butti in rete, questo è amore per te stesso. Vedere che esisti e dire: ok, con questa esistenza io ci devo fare qualcosa ed è importante che io mi prenda cura di me. Ma poi l'amore in senso più ampio, quando poi l'amore esce fuori dai tuoi confini personali, non c'entra niente con te. Tu raccogli tutta la consapevolezza, tutte le cose che hai imparato nel tuo viaggio e le condividi con un'altra persona e gioisci della bellezza della condivisione. E questo è amore allo stato puro. Più amore di così io personalmente non ho mai pensato esistesse. E si applica a ogni cosa, si applica a ogni oggetto, si appoggia su ogni cosa. Cioè, che sia il sesso, che sia un'amicizia, un scambio epistolare, un rapporto intellettuale, godere della possibilità di dare. Io ti do, e questa cosa qui mi realizza. E non c'è niente. E io so benissimo che domani tu puoi uscire dalla porta e non ci vediamo più. Ma io ho dato, io c'ero, io ho provato. Questa è la sostanza della puntata di oggi, probabilmente. Vabbè, l'ho già chiusa, dai, è finita. Rigonia, tante care cose, ci sentiamo alla prossima puntata. Push it on. There may not be, you know, as much humanity in the world as one would like to see. But there is some. There's more than one would think. In any case, if you break faith with what you know, that's a betrayal of many, many, many, many people. I may know 6 people, but that's enough. Love has never been a popular movement. And no one's ever wanted really to be free. The world is held together, really it is held together, by the love and the passion of very few people. Otherwise, of course, you can despair. Walk down the street of any city, any afternoon, and look around you. What you've got to remember is what you're looking at is also you. Everyone you're looking at is also you. You could be that person. You could be that monster. You could be that cop. And you have to decide in yourself not to be. Rigonia. Può darsi che a un certo punto vi troviate fra le mani un argomento di grande portata, sul quale sentite di dover assolutamente scrivere qualcosa. Amore ed erotismo, per esempio. Con un argomento importante come questo c'è sempre il rischio di andare sul filosofico, di diventare astratti, prolissi, noiosi, e questo senza avvicinarsi di un passo a ciò che si vorrebbe dire. Sì, certo, l'erotismo, sono convinta che sia in rapporto con il comportamento, gli istinti sessuali, eccetera, eccetera. Sotto sotto, scrivendone, ci si è lasciati un po' prendere dal nervosismo, perché non si ha idea di come arrivare a ciò che veramente si vorrebbe dire, e allo stesso tempo si ha un po' paura di arrivarci davvero. Rilassiamoci. Partiamo sempre da noi stessi e lasciamoci trasportare. Erotismo è una parola grossa. Se siamo nervosi, guardiamoci intorno. Cominciamo da qualcosa di piccolo e concreto. La tazza sul piattino, lo spicchio di mela, la briciola di dolce che ci è rimasta sulle labbra. Qualche volta bisogna prendere le distanze dalla risposta per arrivarci descrivendo una spirale discendente. Scrivere è l'atto della scoperta. Dobbiamo scoprire il nostro rapporto con un certo soggetto, non la definizione che ne darebbe il dizionario. Da dove vengo? Una mia studentessa ha affrontato questo argomento in un esercizio di scrittura a tempo. Ha iniziato narrando un fatto appena accaduto, una visita a un'amica nel reparto maternità dell'ospedale. Dopo aver descritto nei particolari la sua visita, ha raccontato di aver preparato all'amica, a suo marito e al neonato una cena a base di tacchino arrosto per il giorno del ringraziamento. Nel frattempo si sentiva nello sfondo il ronzio della domanda da cui era partita, e nel bel mezzo di quella cena a Santa Fe è passata a Brooklyn, alla propria nascita e a sua madre. Non è sempre possibile affrontare l'argomento di petto. Qualche volta, per arrivarci, ci vuole un po'. Parlando del rapporto di coppia, Katagiri Roshi ha detto: «Bisogna camminare fianco a fianco, non faccia a faccia. È così che bisognerebbe affrontare ciò che abbiamo da dire. Non aggressivamente, a testa bassa, ma girandolo a passo di danza». Se uno prova sensazioni di tipo erotico e scrive di come si mangia un melone, anche se non usa mai quella parola, noi leggendo proveremo le stesse sensazioni. Ma non pensate che questo significhi che non si possa diventare sfrontati, se è così che avete bisogno di esprimere il vostro erotismo. Certo che se ci spogliamo e ci buttiamo subito, senza preamboli, può darsi che l'acqua ci sembri troppo fredda e che si salti fuori un istante dopo protestando che è una cosa impossibile. Avvicinatevi all'erotismo partendo dall'altra sponda, tutti vestiti, e attraversate il fiume a nuoto con calma. Se nuotando cominciate a levarvi la camicia e i calzoni, al momento in cui approderete all'altra parte sarete nudi, sfrontatamente erotici, come avreste sempre voluto essere, ma senza esserne troppo spaventati o imbarazzati. Per arrivare fin lì ci avete messo tutto il tempo di cui avevate bisogno. Adesso avete toccato terra, sull'altra sponda, e noi abbiamo nuotato insieme a voi. Ora siamo disposti ad ascoltare tutto quel che avete da dire. Perciò, forza, lasciatevi andare. Si potrebbe anche cercare di affrontare un argomento impegnativo da un'altra prospettiva. Suddividiamo l'argomento nei suoi diversi aspetti. Se la parola erotismo vi fa esitare o vi blocca, rendetela più intrigante. Provate a esprimerla così. Cos'è a scaldarvi? Elencate tutti i frutti sexy che conoscete. Cosa mangiate quando non siete innamorati? Qual è la parte più erotica del vostro corpo? Il corpo diventa paesaggio. Con cosa riuscite a entrare in contatto? La primissima volta che avete provato sensazioni erotiche. Se non sapete che cosa sia l'erotismo, scrivete come se lo sapeste. Bene, avete 10 minuti. Scegliete uno dei temi sopraelencati e scrivete. Ricordate la precisione. Via, tenete la mano in movimento, non correggetevi. I seek a thousand answers, I find but one or two. I maintain no discomfiture, my path again renewed. Against the grain, that's where I'll stay. Swim in a stream, I maintain against the grain. You're labeled as a lunatic, sequestered and content. They're ignored and defeated by the government. The Norianic public whose magnetic force is full. Potential of the individual. Against the grain, that's where I'll stay. Swim in a stream, I maintain against the grain. The flow is getting stronger with small increments of time, and at these of new ideas are increasingly undefined. Indeed, all that the other has is your right to seize the day. But in all your acquisitions, you will soon be swept away. Against the grain, that's where I'll stay. Swim in a stream, I maintain against the grain. There's a common consensus and an uncomfortable cheer. A reverberating chorus that anyone can hear. If six leave your cares behind you, just grab tenaciously. This long sense of purpose will destroy us rapidly. Against the grain, that's where I'll stay. Swim in a stream, I maintain against the grain. Against the grain, against the grain, against the grain. My heart bigger than my body. And when I love somebody, like when I love you, that's why I don't get close to people now. Because when I love you, I don't care about what consequences come. I am the sacrificial lamb if I love you. Mm-hmm. I'm getting up out of my bed at 3 a.m. in the morning for you. I'm going to die for you. I'm going to kill for you. Whatever it means, I'm going to do this. And the love I showed people, I never got that love back in return. Never. Never, not one time. Rigonia. 10:39, quasi 40. Rigonia, stagione 02, episodio 32. Si parla di amore. Ho letto un brano del libro Scrivere Zen di Natalie Goldberg, che è uno strumento che adesso tengo lì a portata di mano, perché è un libro pieno di riflessioni che mescolano il generale al particolare e il teorico al pratico, e mi è piaciuta molto la sua riflessione, mi ha fatto riflettere su un pensiero. Io, come dicevo uno o due blocchi fa, non ho mai riflettuto sull'amore fino ai 30 anni. E perché a 30 anni ho riflettuto sull'amore? Perché mi sono trovato in una situazione strana, in cui ero davvero da solo, da solo in senso assoluto. Non avevo voglia di parlare e di stare con gli amici, non avevo voglia di parlare e stare con la famiglia, non avevo un lavoro e ero a casa, avevo dei soldi da parte perché il lavoro precedente mi pagava con un po' di ritardo, e quindi potevo andare avanti a fare questa vita qua. E quando ho finito i soldi mi sono messo a cercare altro lavoro, e però ero in difficoltà, perché pensavo: ma com'è possibile che insomma, dai 20-30 ho fatto così tante cose, cioè ho studiato, mi sono laureato in materie che mi piacevano molto. Ho fatto la radio, ho suonato in posti, ho suonato con qualcuno con me sul palco, ho suonato senza nessuno, ho suonato cantando al microfono, ho suonato senza il microfono, ho viaggiato, sono stato in Spagna, sono stato in Marocco, sono stato in Estonia, sono stato in Finlandia, sono stato in giro, ho fatto il teatro, anche in posti belli, anche in posti importanti, ma come mai mi trovo in questa situazione? Come mai invece ci sono persone attorno a me che d'un tratto è come se una ruota avesse iniziato a girare per loro, è come se le cose avessero iniziato a seguire un filo e loro semplicemente hanno tirato questo filo e sono andati avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, e si stavano trasformando e stavano trovando una direzione, stavano trovando un senso. Come mai? E c'è stato un momento, e me lo ricordo bene, in cui ho pensato, forse perché io non amo nulla, forse io non amo nessuna, veramente nessuna delle cose che ho fatto e che stavo facendo, perché tutto sommato se io amassi quelle cose lì, probabilmente avrei dato tutto me stesso, come ho visto fare a queste persone. Probabilmente non mi sarei preoccupato delle storie sentimentali che andavano male, nel quali si spaccavano i rapporti, delle persone che si allontanavano, del senso di inadeguatezza, del fatto di non essere arrivato, del fatto che facevo tanto ma ottenevo poco, eccetera eccetera eccetera. Probabilmente nasceva tutto dal fatto che forse facevo le cose per le ragioni sbagliate, e la ragione giusta per fare le cose è amarla, amarle. Cioè, le cose, devi fare le cose che ami, e le cose che ami sono le cose che vengono fatte senza aspettarsi nulla indietro, perché il fatto di dare, il fatto di prestare, il fatto di sforzarsi, il fatto di esporsi è già ricevere. Mi dai l'occasione di essere, mi dai l'occasione di esprimermi, mi dai l'occasione di esistere in un dato modo, in un dato contesto. Io ho già ricevuto, questa è l'opportunità, e questo vale anche nel rapporto con le persone, e soprattutto ovviamente nei rapporti sentimentali. Diventa fondamentale. Io ti incontro e decido che tu vai bene, che io decido che io voglio stare al tuo fianco. Tu vai bene è un brutto, decidi di stare al tuo fianco perché tu mi dai l'opportunità di prendere tutto quello di cui ho fatto esperienza, e tutto quello che so, tutto quello che sto facendo, tutto quello che voglio ancora fare, e mi dai l'opportunità di condividerlo con te. Quindi io e te in quel momento esistiamo insieme, e io ti sono grato per darmi l'opportunità di avere un rapporto di questo tipo con una persona. Ed è stato un lungo viaggio, nel senso che poi per capire quella cosa, appunto, per capire quanto era importante l'amore nelle cose che fai, c'è stato da farsi altre domande, del tipo: se non fai le cose, perché non fai le cose che ami? E allora lì, appunto, è nato il tema: forse fino ad oggi non hai amato abbastanza te stesso, perché se tu amassi te stesso faresti le cose che ami e lasceresti perdere le cose che non ami, perché non hanno alcuna importanza, non ti portano niente. Ed è interessante, io faccio questa puntata, entro in onda con questi argomenti, perché è come se li avessi tutti persi. A un certo punto si sono sparpagliati, non li ho più ritrovati tutti assieme. Una volta era un filo di perle, cioè amare me stesso, prendermi cura di me stesso, dedicarmi con amore alle cose, trasmettere il mio amore per le cose come atto d'amore e ringraziare di avere qualcuno che accolga questo amore. A un certo punto questo schema è come se si fosse spaccato, è come se non volesse dire più niente, e un poco alla volta me ne riapproprio, e venire in onda e parlarne è anche un modo per fissare nella pietra questi pensieri, cioè nel senso quanto è importante, quanto ogni volta che ci rimetto i piedi dentro è importante. E cos'è amore? Amore è attenzione, e essere in onda è amore. Prima dei 30 anni appunto sarei rimasto deluso da questa impresa di Rigonia, che comunque dopo 200 puntate, perché ormai siamo vicini alle 200 puntate, se aggiungo quelle che non ho contato, quelle che ho scartato, quelle che ho fatto un po' così estemporanee, e il Francesco ventenne avrebbe detto: non piace a nessuno, non se la caga nessuno, è una perdita di tempo. Invece il Francesco post trentenne dice: questo è amore, cioè io amo quello che sto facendo, voglio continuarlo a fare, voglio mettere il mio amore online, e sono così felice che oggi ho una mattinata libera per andare in onda e parlare di amore. È proprio bellissimo, è un privilegio. E appunto, amore e attenzione. E questa è una cosa che ho imparato anche, che quando la sblocchi ti riempie il cuore di gioia, perché poi a che cosa serve l'amore? Cioè, a che cosa serve l'amore se non a sentire il compimento, a non sentire la completezza, sentirti inserito dentro qualcosa. E questo è possibile solo attraverso l'attenzione, perché siamo ormai viviamo un tempo di distrazione enorme. Voglio concludere con un pensiero che non c'entra niente, ma tornerò sull'amore, ne parlerò ancora perché ci tengo tantissimo. È un pensiero veramente stupido, ma seguitemi. Ho visto un video dove la nazionale di calcio italiana esce dall'aeroporto e non c'è nessuno ad accoglierli, nessuno, il deserto, ed è la cosa più strana che io ho visto negli ultimi anni, perché se c'è una cosa che motiva la gente, gli italiani, a tirar fuori la cazzo di testa fuori dalla porta è il calcio, e soprattutto la nazionale. Soprattutto la nazionale ha un particolare valore. Il fatto che questi siano usciti e non c'era neanche nessuno di gli vaffanculo mi ha stordito come una profonda assenza di amore. Cioè è come se fossimo così distratti e così disinteressati che manco la nazionale di calcio ci muove più il nostro culo pesantissimo dalle nostre cazzo di case gabbia dove abitiamo, nel quale ci imprigioniamo e ci dimentichiamo di tutto. Questo intendo dire con l'amore attenzione, cioè l'amore è quella cosa che ti fa alzare il culo dalla sedia e ti fa fare le cose, ma ti fa fare le cose veramente. Non è scappare, non è trovare scuse, non è girarci attorno, ti fa fare la cosa che è importante per te, ed è l'attenzione. Serve solo l'attenzione, cioè l'attenzione, non usare il tempo in maniera sciatta. Il tempo lo usi in maniera consapevole. Sono le 10:49, adesso mando un audio un po' più lungo, poi mando una canzone e poi vi saluto. Meditation is all about the awareness. So, first time when I learned meditation, I didn't know that. I thought the object is important. So I was struggle and kind of like really my mind fixed with the breath, fixed with the sound. But later my father said, the object, whatever the physical sensation, sound, breath, whatever, is just support for the awareness. So essence of meditation is awareness. So I was feeling relief. Awareness meaning the knowing. Our mind has special quality, which is the knowingness, the knows what you're thinking, feeling. And this cognition, the awareness, with you all the times, with you 24 hours, even while you're sleeping. So sometimes what we call unconscious moments, which is sleep without dream, drink too much alcohol and dung, or moment of dying, or faint, but still there is awareness. You have awareness, but if you're not recognize your own awareness, then that is not become meditation. Then the quality of awareness cannot manifest for you. cannot experience. Although awareness is free, pure, present, genuine, peaceful, all these good qualities, but if you not recognize awareness, we are stuck with the thought, emotion, perception. So, for example, do you know what is this? This watch. What is the quality of watch? Tells time, right? If you have watch, if you are not recognize your own watch, even though watch has the quality to tell you time, but if you not recognize your own watch, no benefit. Watch cannot tell you time. So even the awareness is really perfect, but if you're not connected with awareness, if you not recognize awareness, then quality, then no benefit. Hey, brother Christian, with your high and mighty errand, your action speaks so loud, I can't hear a word you're saying. Hey, sister, bleeding heart, with all of your compassion, your labors do the hurt, but can't assuage temptation. Science with your perfect rules of measure, can you improve this place with the data that you gather? Hey, Mother Mercy, can your laws be improved forever? Is your fecundity a tremble or a treasure? Your children cry when you left them at the station. Hey, moral soldier, you've got righteous proclamations and precious stones to fuel your pulpy conflagrations. And I wanna conquer the world, give all the idiots a brand new religion, put an end to poverty and cleanliness and toil, promote equality and all of my decisions. I want to conquer the world, expose the culprits and feed them to the children. Ultimo blocco di puntata 10:54 Rigonia, stagione seconda, episodio 32. Un abbraccio alle persone che so che mi stanno ascoltando. Penso a loro e penso anche che amore e attenzione è consapevolezza. E quando raggiungi la consapevolezza, ti rendi conto che amore è gratitudine. È un viaggio incredibile. È difficile mantenere questo stato, questa è la verità, nel senso che viviamo in un mondo di ego e quindi l'ego vuole le attenzioni per sé, e questo purtroppo non è tanto amore. E quando invece riesci a fare quel passettino indietro da te stesso, e appunto ti rendi conto che tutte le cose che veramente ti appagano e ti realizzano sono le cose che dai, sono le cose che fai uscire, non le cose che accumuli. È sempre come una clessidra, la clessidra la giri, la sabbia cade giù, è come se tutto quello che c'è dentro cadesse giù, cioè trovasse un altro verso. È veramente la rivoluzione. 55 minuti di puntata, quindi direi che per oggi va bene così. La metto online subito, quindi per chi si è perso la prima parte la recupera. Un saluto all'ascoltatore del futuro che ascolterà questo episodio in podcast. Come sempre un abbraccio a tutta Radio Antidoto per lo spazio, tra l'altro anche Radio Antidoto è qualcosa a cui si cerca di dare attenzioni, che si cerca di amare, che verso cui si ha gratitudine. È proprio questo il punto, proprio questo è il motivo per cui siamo qui. E spero di tornare in onda presto, spero già domani pomeriggio, non sono sicuro, ho dei viaggi in auto da fare, quindi vediamo un attimo come va, però sono contento di essere riuscito a tornare in onda coi tempi e i modi giusti, e di essere riuscito anche alla fine, nonostante l'inizio fosse wow, in salita, salitissima, essere riuscito a parlare di questo argomento, però boh, vorrei parlarne ancora, vediamo se sono capace. Un abbraccio a tutti e una buona giornata. Arrivederci su Rigonia. Abbi fiducia in ciò che ami, continua a farlo, e ti porterà ovunque tu voglia andare.